Il Signore disse a Mosè e ad Aronne: «Parlate ai figli di Israele e dite loro: chi abbia uno scolo che esca dal suo corpo, tale scolo è impuro. Ecco in che consiste la sua impurità. Mentre dura lo scolo, sia che il suo corpo lasci uscire lo scolo, sia che lo trattenga, è impuro. Ogni letto su cui si coricherà chi ha lo scolo è impuro, e qualsiasi mobile su cui si siede è impuro. Chiunque tocca il suo giaciglio, sciacqui i suoi vestiti, si lavi con acqua e resterà impuro fino a sera. Chi si siede su un mobile su cui si è seduto chi ha lo scolo, sciacqui le sue vesti, si lavi con acqua e resterà impuro fino a sera. Chi tocca la carne di colui che ha lo scolo, sciacqui le sue vesti, si lavi con acqua e resterà impuro fino a sera. Se chi ha lo scolo sputa su una persona pura, questi sciacqui le sue vesti, si lavi con acqua e resterà impuro fino a sera. Ogni sella su cui sia montato chi ha lo scolo è impura. Chiunque tocchi qualsiasi cosa che si sia trovata sotto di lui è impuro fino a sera. Chiunque trasporterà tale cosa sciacqui le sue vesti, si lavi in acqua e resterà impuro fino a sera. Chiunque toccherà chi ha lo scolo senza sciacquarsi le mani, sciacqui le sue vesti, si lavi con acqua e resterà impuro fino a sera. Un vaso di argilla che sia stato toccato da chi ha lo scolo sia rotto e ogni oggetto di legno sia sciacquato nell'acqua. Quando chi ha sofferto di scolo ne sarà guarito, conterà 7 giorni per la sua purificazione. Poi sciacquerà le sue vesti, laverà il suo corpo con acqua corrente e sarà puro. L'ottavo giorno prenderà 2 tortore o 2 colombi e verrà alla presenza del Signore all'ingresso della tenda del convegno e li darà al sacerdote. Il sacerdote farà con uno un sacrificio espiatorio e con l'altro un olocausto. Compirà così per lui, alla presenza del Signore, il sacrificio espiatorio per il suo scolo. Un uomo da cui esca una emissione seminale lavi con acqua tutto il suo corpo e sia impuro fino a sera. Ogni veste e ogni cuoio su cui avvenga un'emissione seminale sia lavato con acqua e resterà impuro fino a sera. La donna e l'uomo che abbiano avuto rapporti intimi si lavino ambedue con acqua e resteranno impuri fino a sera. Una donna che ha flusso di sangue, cioè il flusso nel suo corpo, resterà 7 giorni nella impurità delle sue regole. Chiunque la tocca è impuro fino a sera. Qualunque cosa su cui si sdrai durante le sue regole è impura, e qualunque cosa su cui si sieda è impura. Chiunque tocca il suo giaciglio, sciacqui le sue vesti, si lavi con acqua e resterà impuro fino a sera. Chiunque tocca un qualsiasi mobile su cui essa si sia seduta, sciacqui le sue vesti, si lavi con acqua e resterà impuro fino a sera. Se un oggetto si trova sul giaciglio o sul mobile su cui si è seduta, toccandolo si diventa impuro fino a sera. Se un uomo giace con lei, contrae l'impurità delle sue regole e sarà impuro per 7 giorni. Ogni giaciglio su cui si stende diventa impuro. Una donna che abbia un flusso di sangue di diversi giorni fuori del tempo delle sue regole, o se le sue regole si prolungano durante tutto il tempo del suo flusso, la sua impurità è uguale a quella del tempo delle sue regole. Ogni giaciglio su cui si sdraierà durante tutto il tempo del suo flusso sarà per lei come il giaciglio del tempo delle sue regole. e ogni mobile su cui siederà è impuro della stessa impurità delle regole. Chiunque li tocca è impuro, sciacqui le sue vesti, si lavi con acqua e resterà impuro fino a sera. Se è guarita dal suo flusso, conti 7 giorni e dopo è pura. L' 8° giorno prenda 2 tortore o 2 colombi e li porti al sacerdote all'ingresso della tenda del convegno. Il sacerdote faccia con uno un sacrificio espiatorio e con l'altro un olocausto. Il sacerdote compie così per lei il sacrificio espiatorio alla presenza del Signore, purificandola dal flusso che la rende impura. Ammonirete i figli di Israele sulle loro impurità, affinché non muoiano per le loro impurità, rendendo impura la mia dimora che sta in mezzo a loro. Questa è la legge per chi ha uno scolo o un'emissione seminale che lo rende impuro, e per la donna che si trovi nella impurità delle sue regole, e cioè per chi abbia uno scolo, maschio o femmina, e per l'uomo che ha giaciuto con una donna impura.